Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Quarta puntata del ciclo settimanale dedicato da Smart City al tema del cibo e alla nutrizione nell'ambito della programmazione di Radio 24 in vista dell'Expo. Parliamo di packaging attivo e packaging intelligente, due frontiere promettenti per quanto concerne gli imballaggi riservati al cibo. È attivo quel packaging che interagisce attivamente appunto con gli alimenti allo scopo per esempio di migliorarne la conservazione. Intelligente invece è quel packaging che interagisce col consumatore, per esempio fornendogli informazioni sullo stato di conservazione dell'alimento. Ci spiega tutto Chiara Albicocco, che ha intervistato Davide Barbanti, docente di tecnologia degli alimenti all'Università di Parma. Sentiamo. Partiamo dal packaging attivo, quello che succede, come dire, dentro la confezione, ad esempio incelofanata delle mele, dei pomodori, ecco. Lì che cosa state valutando nella ricerca e che cosa poco c'è già presente? Tipicamente nel caso della frutta, dei prodotti cosiddetti climaterici, cioè che continuano a maturare anche dopo la raccolta, l'elemento importante è la sottrazione dell'etilene, che è un gas prodotto naturale del metabolismo della pianta che ne accelererebbe la maturazione. Allora, quando nella confezione vengono introdotte sostanze di natura biologica o di natura chimica che comunque hanno la capacità di sottrarre e quindi di togliere l'etilene all'interno della confezione, questo permette in qualche modo di allungare la vita di quel prodotto, di quel frutto, senza farlo ad arrivare ad una maturazione eccessiva che non sarebbe gradita al consumatore. Ecco, diciamo che sono sostanze che in qualche modo assorbono l'etilene senza danneggiare in nessun modo ovviamente il prodotto. E così per la frutta, ma anche in altri, diciamo, ambiti. Assolutamente sì, perché noi possiamo pensare sostanze che assorbono l'etilene, ma in modo selettivo abbiamo altre sostanze che possono assorbire l'umidità, possono essere anche sostanze che emettono una particolare molecola a carattere antimicrobico che con un rilascio progressivo nel tempo impediscono al prodotto di andare incontro ai naturali processi alterativi. Addirittura io avevo sentito che questo tipo di sostanze assorbenti potevano essere installate anche nei bancali dei supermercati, cioè non solo nella singola confezione ma anche in quei luoghi dove la frutta è distribuita in maniera sfusa. Sì, assolutamente, è solo una questione di, come dire, di logistica e di tecnica. Ecco, già sì. Esistono queste soluzioni, fanno parte del sistema conservativo della frutta in grandi quantità e vengono denominate atmosfere controllate e lo stesso concetto è stato applicato sia appunto ai sistemi di refrigerazione e di conservazione nella grande distribuzione, ma noi per esempio qui nel nostro dipartimento di Parma abbiamo anche lavorato per creare dei nuovi prototipi di frigoriferi domestici che hanno esattamente la stessa funzione. La stessa caratteristica. E poi, allora, dicevamo c'è una seconda grande categoria che invece sono i packaging intelligenti, che sono quelli che danno informazioni al consumatore se quella partita, se quella confezione di mele, ad esempio, ha subito alterazioni termiche. Sì, questo è un ambito dove il confezionamento, diciamo invece che guardare il prodotto, si rivolge al consumatore, nel senso che esistono delle etichette, dei piccoli segnalatori che vengono apposti, possono essere apposti all'esterno della confezione, che hanno la capacità di segnalare se e in che modo quel prodotto alimentare è stato mantenuto nelle corrette condizioni di temperatura. Quindi il prodotto refrigerato sappiamo che deve comunque essere mantenuto tra 0 e 4 gradi mediamente, o il congelato al di sotto dei meno 18, e questi indicatori sono una specie di semaforo che attraverso un cambiamento di colore progressivo segnalano se la permanenza di quel prodotto è rimasta sempre all'interno di quella temperatura prevista. Quindi se il semaforo è verde dice comprami perché sono stato conservato bene. Se è rosso ho subito qualche alterazione strana. Ecco, ovviamente state studiando affinché questo metodo sia il più rigoroso e il meno fallimentare possibile. Indubbiamente, perché voglio dire, la segnalazione di abuso termico non è una scure che ti taglia in due la vita del prodotto. C'è tutto un livello di graduazione, si stanno cercando di mettere a punto questi sensori sempre più affidabili in modo tale che tengano conto del fatto che molto spesso o in alcune condizioni l'abuso termico non è deleterio per la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria del prodotto. In certi ambiti di legge è anche previsto. Bene, grazie al professor Davide Barbanti, grazie a Chiara Albicocco, noi ci risentiamo domani. Buona serata.